che dai luce al mondo dona pace e verità, porta dentro questo canto e vento sia di libertà. La tua forza non ha confini, unisce chi si separò, fa che siano più vicini gli uomini che Dio creò. Gioia dea di questa terra che del bene tutto sa, sei nemica di ogni guerra, fonte di felicità. Chi nel cuore ha un cielo di stelle, ogni fratello abbraccerà. Chi ti volterà le spalle, nell'oblio si perderà.